La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via, ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle, con la luna e le nuvole. Sono ferme qui come lacrime che non cadono. Il tempo perde anche i ricordi, resta solo il canto di un amore che non muore. Prendi la mia mano, il sole se n'è andato già dall'altra parte dell'oceano ed è ritornato finalmente il buio sopra i baci degli amanti e le nuvole lasciano così.